non ci puoi credere, ma ti dico che sono in tutto e per tutto innamorato di te. E se domani tu mi incontrerai, vedrai, te lo dimostrerò. So che non ci puoi credere, ma ti dico che questa vita non appartiene a me, ma io la voglio condividere con te, sempre che tu poi scegli me. Non ci puoi credere, ma ti dico che una nuova alba verrà ed io sarò lì ad aspettare te, che sei la mia libidine. Oh, oh. E se tu non sarai lì per me, sappi solo che amo soltanto te, sei la mia unica ragione di vita, la mia sola cucciola. Schiena, troverai nel mare un amico con cui parlare, resterò in silenzio soltanto ad aspettare, sei tu quella vita che continuo io a cercare.